Ciao ragazze. Ciao. Ciao. Dai, vabbè, iniziamo. No, said I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun. But if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do. Buonasera, buonasera, eccoci qua lunedì 11 agosto, questa è Nervature come ogni lunedì alle 19 circa, infatti io sono Addu, come sempre qui con voi in diretta, in regia, anche oggi sono da sola ma non ci scoraggiamo, ci va bene così. Anzi, facciamo, vanno bene, dai, anche queste puntate un po' più tranquille in questi caldi afosi tremendi che sono tornati, accidenti. Infatti sì, anche in regia non me la sto passando benissimo, vi dico la verità, ma probabilmente sono nella vostra stessa situazione, quindi non ci disperiamo, non ci lamentiamo, anzi direi subito iniziamo con un po' di musica e poi attacchiamo la puntata di oggi. Thank you. E quindi siamo qui in questo lunedì 11 agosto, 19.07 circa, in quel di Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Andate a vedere il nostro sito, soprattutto in questo periodo estivo, da cui perché da lì potete recuperare tutti i podcast e le puntate precedenti di tutte le trasmissioni che vi interessano, anche quelle non più attive, pensate un po', quindi non avete di che annoiarvi nonostante il palinsesto sia un pochino più vuoto. Appunto, quindi il sito radiowombat.net. Da lì trovate anche altre informazioni interessanti, come contattarci, il pad diretto a wombat.vado.li è il link per accedervi direttamente, quindi è il foglio di testo condiviso che usiamo per chiacchierare con voi in diretta, vi esorto a aprirlo, a sfruttarlo e a riempirlo di parole belle e complimenti, mi raccomando. No, scherzo, anche domande, tutto quello che volete. Diretta a wombat.vado.li. Che dire, in questa puntata di Nervature vado semplicemente avanti con l'audiolibro di Memorie di un vecchio giardiniere, Reginald Arkell. Ho perso il conto, forse è la sesta, la quinta, non me lo ricordo. Lo scoprirò poi quando andrò a vedere il sito, che lì c'è scritto Pebbenino. Quindi continuiamo con questo audiolibro. Thank you. Se si potessero togliere uno dopo l'altro gli anni dalla vita di un individuo, come si tolgono le foglie di un carciofo, scopriremmo che il periodo più bello è quello compreso fra i 50 e i 65 anni. Le atroci inquietudini della gioventù si sono estinte, le ombre non spaventano più, i concorrenti non tallonano più. Non si è spento però ancora il desiderio di conseguire dei risultati e il successo pieno, stupendo e soddisfacente, è proprio lì a portata di mano. Un periodo di felice di calma e dorata maturità che fa emergere le doti migliori di un individuo. A poco si fa strada all'affabilità, all'ottimismo, sparge il calore dei propri raggi, addirittura arriva pure un po' di senso dell'umorismo. Avvicinandosi alla sessantina, il signor Pinnegar cominciò a rilassarsi e di lui si diceva che sapeva stare allo scherzo alla pari degli altri. Per esempio, raccontava la storia dell'agricoltore che credeva fosse utile dare il buon esempio ai dipendenti impegnandosi assieme a loro quando c'era da fare un lavoro difficile. Bene, l'agricoltore mandò una squadra a estrarre le rape e dopo la prima colazione si unì a loro, raccomandando ai familiari di non dimenticare assolutamente di mandare qualcuno a chiamarlo al più tardi dopo una mezz'ora, dicendo che c'era bisogno di lui a casa. Per sua sfortuna, quelli dimenticarono l'ordine ricevuto e il povero agricoltore continuò a estrarre rape per tutta la mattina. Roba da farlo stramazzare dalla fatica, poveretto! Il signor Pinnegar non risparmiava battute neppure a quei suoi dipendenti che lavoravano fiaccamente durante il giorno, ma che sembravano meravigliosamente vigorosi la sera, quando zappavano i loro poderi. Capitò che un giorno uno di loro dicesse che la stagione tardava ad arrivare quell'anno. «Già», replicò il signor Pinnegar, «come i prodotti del vostro podere». Poi c'era il discorsetto che faceva a tutti i nuovi apprendisti sull'importante argomento delle piantaggini. Le potete avvelenare e loro ci godono, potete cercare di sradicarle e cresceranno più robuste, oppure potete ignorarle. Se becco uno di voi a ignorare le mie piantaggini, li farò vedere i sorci verdi. Con i dovuti limiti non era contrario ai nuovi attrezzi che facilitavano il lavoro, ma con l'andare degli anni scoprì una generazione più giovane alla quale non piaceva lavorare e cominciò a guardare le innovazioni con una certa diffidenza. Alla fiera della contea non si univa ai gruppetti che si raccoglievano attorno a stupendi macchinari di nuova invenzione. Voleva che i bordi dei suoi prati fossero tagliati in modo accurato e preciso e non rosicchiati dalle lame di un aggeggio meccanico. Perfino i fiori non erano più quelli di una volta. Ricordava i tempi in cui il muschio ancora non aveva perso il suo profumo. «Che odore aveva?» chiese un apprendista. «Ma come si faceva a descrivere un odore?» Signor Pinnegar riflette un poco. «Che odore aveva?» ripeté. «Ma di muschio, no? Di cos'altro dovrebbe odorare?» A volte i ragazzi gli chiedevano «Perché il muschio ha smesso di avere odore?» Il signor Pinnegar rispondeva «Se te lo dicessi, saremmo in due a saperlo». E se ne andava, ridacchiando fra sé e sé. Gli piacevano ancora i fiori selvatici. Sulle pendici più basse delle colline calcaree di dintorni, i verbaschi o tassi barbassi crescevano come la gramigna. Spargevano i semi dappertutto e se non si stava attenti diventavano una vera seccatura. Quasi tutti i giardinieri dichiaravano guerra a quegli intrusi lanosi. Ma il signor Pinnegar, che osservava sempre con grande attenzione l'operato spontaneo di madre natura, notò che il verbasco aveva l'abilità di piantare le radici nei luoghi più adatti. Spuntava all'angolo di un muro e, se lo si lasciava indisturbato, si otteneva un po' di verde e di colore proprio dove era necessario. Ma perché lasciarlo indisturbato? Perché non farlo entrare a pieno diritto nel giardino? Un giorno il signor Pinnegar era fermo sul grande terrazzo del parco. «Cosa starà strogolando?» si chiesero i ragazzi, facendo un esame di coscienza per controllare se avessero commesso qualche mancanza, mentre il loro capo osservava il panorama. Giunta una decisione, il signor Pinnegar prese la vanghetta e si mise a togliere tutti i verbaschi che non rientravano nello schema che aveva in mente. Lasciò gli altri, e l'anno dopo, le loro belle spighe gialle cominciarono a brillare come i grandi ceri di una chiesa. Guardando il giardino dai gradini del terrazzo, parevano dei chierichetti che camminavano reggendo candele accese lungo navate fiocamente illuminate. L'estate era stata molto asciutta e i verbaschi, che crescevano nel loro terreno naturale, avevano resistito alla siccità e costituivano la parte più splendida del parco. La signora Charteris ne fu affascinata e pensò che sarebbe stato da egoisti privare i vicini di tanta bellezza. Chiamò il capogiardiniere e lo informò di avere deciso di aprire il giardino al pubblico il giovedì seguente. Il signor Pinnegar, che era un uomo prudente, contrario alle decisioni repentine, si seccò un poco. Qualche invito a conoscenti poteva andare, ma permettere a una folla di gitanti di calpestare le bordure, spezzare gli arbusti e rubare i fiori era una faccenda ben diversa, con tutto il rispetto. La signora Charteris, sebbene non dimenticarlo, era in anticipo sui tempi. Quelli erano ancora i giorni dei muri di cinta alti e dei cancelli di ferro sprangati. Poteva succedere che si passasse tutta la vita nel villaggio senza riuscire a vedere una sola volta il parco della villa. Non essendo ancora nato il movimento meritorio dei giardini aperti a favore delle infermerie che visitano a domicilio i malati del proprio quartiere, non si sapeva come si sarebbero comportati i visitatori. Quando il signor Pinnegar si irrigidì un poco, temendo il peggio, rispecchiava i pregiudizi del tempo. «Con tutto il rispetto», azzardò, ma la signora Charteris aveva deciso e quando prendeva una decisione non c'era verso di fargliela cambiare. Il giardino sarebbe stato aperto al pubblico il giovedì successivo, giorno di chiusura anticipata del mercato. Avrebbero esposto l'invito negli uffici postali, nelle vetrine dei negozi e in altri luoghi pubblici. Il signor Pinnegar avrebbe fatto gli onori di casa a chiunque si fosse presentato. Ma qui il signor Pinnegar si impuntò. Con tutto il rispetto, gli sembrava più decoroso che fosse la padrona di casa. «Sciocchezze, Pinnegar», disse la signora Charteris, «è tutta opera vostra ed è giusto che ve ne venga riconosciuto il merito. Non dovrete fare altro che passeggiare tranquillamente nel giardino e rispondere alle domande che vi verranno fatte. Siate naturale e disponibile, come sempre, e dopo mi racconterete tutto. Ora andate a fare stampare gli inviti, non abbiamo molto tempo». Il giovedì sembrò che tutti non avessero desiderato altro che vedere il giardino della villa. Vi erano auto parcheggiate su entrambi i lati del viale d'accesso. Gli agricoltori arrivarono con tutta la famiglia e i braccianti portarono anche i neonati e perfino dei turisti casuali. Attirati dalla folla, fermarono l'auto e passeggiarono qua e là per il giardino come se fosse di loro proprietà. Fu un grande giorno per il signor Pinnegar. Il sole brillava e i verbaschi gialli scintillavano. E come li ammiravano i visitatori! Sembravano uno spettacolo pirotecnico. «Chi l'avrebbe potuto immaginare con la siccità che c'è stata?» esclamò un capogiardiniere pensando alle sue bordure spoglie. «È solo un mucchio di verbaschi!» disse un altro con invidia. «Però con quanta abilità hanno saputo usarli!» disse un terzo, e nel sentirli signor Pinnegar provava la felicità del vero artista creativo, quando il riconoscimento del suo valore cade come pioggia tiepida su un terreno assetato. raggiante come i suoi verbaschi per l'ammirazione generale, a un certo punto il signor Pinnegar sentì che qualcuno gli metteva in mano un pezzetto di carta. Dato una rapida occhiata, vide che era una banconota da una sterlina. Avendo ormai superato l'età delle mance, stava per restituirla quando avvertì una lieve gomitata nelle costole e, giratosi, vide due perfetti sconosciuti. Un giovane dall'aspetto allegro in divisa della marina con una ragazza, che tra sé definì un tipetto interessante, appesa al suo braccio. «Buongiorno, George», disse il giovane. «Non siete affatto cambiato. Vi presento la mia ragazza, Gladys». «Gladys, ti presento George, il capo giardiniere di mia zia. George?» Il signor Pinnegar aprì la bocca per spiegare che la coppia si era rivolta all'indirizzo sbagliato quando ricevette un'altra gomitata che silenziosamente gli diceva: «Dai, sta al gioco, amico. Non c'è niente di male a scherzare un po'. La flotta è in porto, fa la tua parte». Questi, pensò il signor Pinnegar, sono due imbucati, individui di cui aveva sentito parlare che si presentavano alle feste a cui non erano invitati e la facevano franca grazie alla loro faccia tosta. Proprio la domenica prima aveva letto che a Londra una signora, una duchessa, ne aveva scoperti due e li aveva cacciati. Però non c'era niente di male a divertirsi un poco e la flotta era davvero in porto. D'accordo, sarebbe stata al gioco. «Sentite, George», disse il tizio in divisa, «ho conosciuto la signora 2 ore fa, non appena sono sceso dalla nave, e non crede che questo posto sarà mio dopo la morte della zia. E come sta la mia vecchietta?» «Benissimo, signore», rispose il signor Pinnegar, «anche se, come sua signoria ben sa, non è più giovane come una volta. E cosa ne pensa, sua signoria, del giardino?» «Oh, è di primo ordine, George, di primo ordine! Anzi, tra voi e me, George, ho deciso di aumentarvi lo stipendio di una sterlina alla settimana, in riconoscimento di quanto fate». «Sua signoria è troppo gentile», disse il signor Pinnegar. «Vorrebbe visitare le serre? Forse la signorina gradirebbe qualche garofano?» Tutto sarebbe filato liscio se Gladys si fosse accontentata dei garofani. Ma Gladys non era quel tipo di ragazza. Dentro una serra sapeva benissimo cosa voleva. E infatti lei, come un bambino che strilla perché pretende la luna, voleva la più bella orchidea da concorso del signor Pinnegar. «Ti piacciono?» le chiese il marinaio. Gladys annuì, batté le mani contenta. «Le piacevano molto le orchidee, e come!» «Sono tue», dichiarò generosamente il suo cavaliere. «È tutto tuo, prendi quello che vuoi. Spoglia anche tutte le piante se ti fa piacere». Per il signor Pinnegar quello era troppo. «Oh no, che non spoglia niente. Se tocca una sola delle mie orchidee la butto fuori». L'erede della grande proprietà prese un'aria offesa. «George», disse, «dimenticate le buone maniere. Se non aveste moglie e 7 figli, vi recinzierei su 2 piedi. Capito, George? Su 2 piedi. Se tocca anche una sola delle mie orchidee, le farò assaggiare la mia cinghia sul sedere fino a farla urlare». Col tempo il signor Pinnegar aveva migliorato il proprio vocabolario, ma nei momenti di forte emozione ricadeva nel linguaggio grossolano o comune. Il Nelson in erba lo guardò serio. «Questo è troppo, George», disse. «Siete licenziato, destituito, cacciato, con ignominia. Mi dispiace farlo, George, ma ve la siete cercata. Io lo riferirò alla zia». Il caso volle che in quel momento una signora di proporzioni enormi, una vera e propria corazzata, puntasse su di loro. Il signor Pinnegar non si lasciò sfuggire quell'occasione. «Benissimo», disse. «Glielo riferisca pure, eccola che arriva». Per la prima volta nella sua lunga e gloriosa storia, la marina inglese decise di non dare battaglia. Fece dietro fronte e se la diede a gambe. Il signor Pinnegar pensò che non li avrebbe visti mai più, ma invece non fu così. Cinque minuti dopo, mentre passeggiava lentamente fra la folla che guardava ammirata i verbaschi, un giovane in uniforme della marina lo tirò furtivamente da parte e gli disse: Scusatemi, amico, devo tornare a Portsmouth e non ho il becco di un quattrino. Potrei riavere la piccola offerta che ho messo nel suo piatto poco fa? Il signor Pinnegar estrasse dalla tasca la banconota da una sterlina e, sollevato, la porse al marinaio in difficoltà. Ne avrete bisogno, se me ne intendo un poco. Già, Gladys era un tipetto interessante, altro che... Il vecchio Gramigna credeva di poter ricordare quasi tutto, ma quando ripensava agli anni intercorsi fra le due guerre, spesso i ricordi si accavallavano. Qualche volta si metteva gli occhiali con la montatura metallica e guardava la targhetta su un trofeo assegnatogli come vincitore a una mostra, per ricordarsi una data che non gli veniva alla memoria. Oppure accarezzava i cartoncini di assegnazione del primo premio che segnavano, come orme sulla sabbia umida, il suo passaggio trionfale attraverso tutte le esposizioni floreali più importanti d'Inghilterra. Nelle scuderie e nelle stalle inchiodavano sulle travi i cartoncini dei premi vinti, primo, secondo, terzo classificato e persino le menzioni speciali. Se l'avesse fatto anche il vecchio Gramigna, avrebbe dovuto disporre in una casa grande come la villa. Già i soli cartoncini dei primi premi, disposti ordinatamente in fila in un cassetto della vecchia scrivania, occupavano tutto lo spazio che poteva concedere loro. Per fortuna li aveva conservati. Perlomeno li servivano per convincere quei ragazzi là fuori che non erano loro le uniche persone in gamba al mondo. Quando gli contestavano qualcosa, apriva il cassetto e consultava lo schedario, lasciandoli un po' a macerare prima di dire loro come stavano le cose. Essendo stato chiamato a giudicare esposizioni su tutto il territorio nazionale, era diventato un personaggio conosciuto negli ambienti orticoli dell'intero paese. I segretari delle esposizioni li scrivevano e una volta, a Southport, il giornale locale l'aveva intervistato e lo aveva definito il decano delle giurie. Nonostante non capisse cosa volesse dire, aveva ritagliato l'articolo e lo aveva messo insieme agli altri trofei. Durante quegli anni meravigliosi, la signora Charteris era stata orgogliosa del suo capo giardiniere quanto lo era stato lui stesso di sé. Assieme avevano lavorato e studiato finché il giardino della villa non era diventato uno dei luoghi da visitare del paese. Attraversavano mezza Inghilterra e arrivavano persino dall'America per venirlo a vedere, ma era troppo bello per durare. Per la seconda volta in un quarto di secolo, improvvisamente, il terreno del suo piccolo mondo gli crollò sotto i piedi. L'Inghilterra era entrata di nuovo in guerra e i giardini non erano più importanti, a meno che non ci si coltivassero dei cavoli o servissero come cura per i cuori infranti. Sembrò che la popolazione fosse invecchiata nello spazio di una notte. Quasi tutti i giovani scomparvero e per le vie del villaggio correvano dei bambini sconosciuti che provenivano dalle città. I prati furono abbandonati alla loro sorte, i parchi furono arati e le erbacce invasero tutto. Era già successo, questo è vero, ma il signor Pinnegar si avvicinava alla settantina e non era più quello di 25 anni prima. La volta precedente si era accollato ogni incombenza gli capitasse tra le mani, si era caricato di tutte le necessità della comunità ed era riuscito perfino a ridere quando avevano tolto i fiori per piantare le patate al posto loro. Ma questa volta no, provava un rancore feroce contro tutto e contro tutti, contro quella pazza coalizione che tentava di distruggere il mondo garbato e raffinato in cui aveva vissuto. Le seccature erano infinite. Per esempio, i ragazzi del villaggio erano già abbastanza insopportabili, ma quando arrivarono dalla città i loro coetanei sfollati e più scaltri, che misero nuove idee in testa ai giovani locali e li aiutarono a fare malestri, fu impossibile tenerli a bada. Il signor Pinnegar era riuscito a inquadrare abbastanza bene i monelli locali, ma quei piccoli londinesi lo intrappolavano, letteralmente, e non c'era limite alle loro diavolerie. Inoltre non era più tanto lesto di piede, e anche il braccio che usava per assestare una bella botta, non era più preciso come una volta. Decise di preparare alcuni vecchi trabocchetti. Mise del filo spinato nei punti in cui avrebbe fatto più male e incatramò il tronco dei meli. Arrivò a costruirsi un nascondiglio in un vecchio olmo e per poco non si ruppe l'osso del collo per salirvici. Una volta credette di averli colti sul fatto, ma quelli avevano teso una corda attraverso il sentiero e di nuovo fu lì per rompersi l'osso del collo. Cercò di ingraziarseli con dei doni. Mandò nelle case di quei bambini orrendi delle ceste di frutta che il vento aveva fatto cadere dai rami, ma quelli arricciarono il naso davanti alla frutta da cuocere, pure bacata, e cominciarono a dare una caccia ancora più spietata alle sue arance dorate. Bontà divina, come si vendicarono! Non ne rimasero neppure 5 o 6 presentabili per il pranzo di Natale. A un certo punto il signor Pinnegar si ricordò del vecchio trucco di trasformare un bracconiere in guardiacaccia e offrì a un ragazzo londinese un lavoro nel giardino. Durò una sola settimana perché quel monello era talmente insolente che il vecchio giardiniere non riuscì a sopportarlo. Raccontava un sacco di storie fantastiche e completamente insensate. Diceva che il Battersea Park di Londra era infestato di coccodrilli che avevano mangiato vivi dei suoi fratelli. Per lui la vita era una specie di interminabile primo d'aprile. A un certo punto il signor Pinnegar ebbe una tale confusione nella testa che lo cacciò via. E poi c'era stata questa ragazza che amava tutto ciò che aveva a che fare con la terra. Una tipa in gamba, non c'era che dire. Non la smetteva di recitare poesie e chiedere come facevano i crochi ad avere figli. Portava le branche e sosteneva che piantando la pastinaca a testa in giù sarebbe cresciuta più pulita. Alla fine il signor Pinnegar la mandò alla fattoria e l'ultima cosa che venne a sapere di lei fu che cercava di mungere un manzo con un piccolo estintore portatile. così per una cosa o per l'altra, il signor Pinnegar se la passava male, finché alla fine aveva i nervi tanto logorati che era meglio non arrischiarsi a parlargli. Una mattina un camion si fermò davanti alla villa e ne uscirono una mezza dozzina di giovanotti, tutti d'umore festoso. Cominciarono a portare via i cancelli di ferro battuto del grande terrazzo. Il signor Pinnegar era a conoscenza del programma di recupero dei materiali ferrosi e sapeva quanto fosse necessario raccogliere gli oggetti vecchi e inutilizzati, ma c'era un limite a tutto. Quei cancelli dal delicato traforo italiano erano stati portati alla villa dalla signora quando era poco più che una bambina. Erano talmente leggeri che bastava una mano per sollevarli. Non se ne poteva ricavare neppure la quantità di ferro bastante a costruire un secchio. Il signor Pinnegar vide rosso. Quello che più lo offendeva era il modo in cui quei giovanotti eseguivano il lavoro. Per loro quei cancelli, graziosi, non avevano più valore di una vecchia testata di letto in ferro battuta in un fosso. Si divertivano da matti, ancora di più perché si sentivano dei caporioni. Ma quale diritto poteva appellarsi un vecchio contro una squadra di lavoro in tempo di guerra che aveva la legge dalla sua? Dentro il camion, fra le pentole e i tegami arrugginiti, finì l'opera d'arte bella e superflua di un artigiano mediterraneo. Ed egli rimase lì, fermo, in mezzo alla strada, scuotendo minacciosamente il pugno impotente. A questo dunque era destinata l'Inghilterra. Che i grandi parchi privati non potessero essere preservati era comprensibile, ma poniamo che alcuni cominciassero a strappare i fiori così, per fare dispetto a qualcuno. Quello era fare il gioco dei tedeschi, come quando avevano tagliato tutti i meli giovani degli orti francesi. Indubbiamente a quei giovanotti era stato ordinato di ritornare col camion pieno, ma era il modo in cui eseguivano l'incarico ricevuto che non andava. Erano di gran lunga troppo soddisfatti di loro stessi, come se sfogassero finalmente del rancore covato da tempo. Quale torto aveva fatto loro, la sua signora, per giustificare quell'animosità? No, c'era qualcosa che non andava, concluse il signor Pinnegar, attraversando tristemente il terrazzo invaso dalle erbacce. Non aveva mai invidiato ai ricchi i loro possedimenti, e non perché fosse servile e sapesse qual era il suo posto, ma semplicemente perché non voleva avere la seccatura di tanta responsabilità. Chi è proprietario di un grande parco deve costruire il muro di cinta e pagare un paio di operai per la manutenzione degli alberi. Ciò fatto, si pretenda che permettesse a chiunque di entrare e andare di qua e di là, come se fossero nel giardinetto di casa loro. Chi aveva le proprie dipendenze 10 giardinieri doveva pagarli tutti e quando si ammalavano doveva anche mantenerli finché non si ristabilivano. Prendiamo per esempio la signora Charteris. Aveva quasi 80 anni e tutta la proprietà alle sue spalle. In tempi di vacche magre, gli affitti che percepiva si abbassavano e in tempi di vacche grasse rimanevano bassi. A volte il signor Pinnegar si chiedeva come riuscissero i proprietari terrieri ad andare avanti. Non c'era da meravigliarsi se tanti erano costretti a vendere estranei venuti dalla città. Il vecchio Gramigna cominciava a preoccuparsi per la signora Charteris. Stava diventando così anziana e fragile da uscire per una passeggiatina sul terrazzo soltanto nelle giornate soleggiate e col vento giusto. Le avevano comperato una sedia a rotelle e a volte lui la lasciava seduta lì, fuori, a godersi il pezzetto di giardino che erano riusciti a mantenere ben curato. Ogni tanto parlavano della guerra, dicendo come sarebbe stato facile farla finire se la gente avesse accettato di stare un po' assieme per imparare a conoscersi e a capirsi. La signora Charteris sosteneva che se passassimo il tempo libero a curare dei fiori, invece che a dire delle grandi sciocchezze, al mondo si starebbe molto meglio. Un giorno, uscendo dalla serra, il signor Pinnegar sentì la voce della signora che lo chiamava e si spaventò a morte quando la vide seduta immobile nella sedia a rotelle. Le parlò, ma lei non rispose, e quando finalmente lo fece gli raccontò una specie di sogno che aveva fatto, quasi una visione. A quanto pareva, la signora Charteris se ne stava seduta a pensare alla guerra e a quanto fosse immorale che la gente non avesse niente di meglio da fare che bombardarsi a vicenda, quando, su nel cielo, aveva visto uno strano punto nero dirigersi verso di lei. Sulle prime aveva creduto che fosse una allodola, ma man mano che si avvicinava aveva capito che si trattava di un paracadute con un uomo appeso in fondo. Il paracadute aveva continuato a scendere a pochissima distanza da lei, tanto che aveva creduto che l'avrebbe sbalzata fuori dalla sedia. Poi si era aperto come un ombrello enorme, coprendola tutta, e lei si era trovata seduta al centro di una grande tenda, simile a quella dell'esposizione floreale di Chelsea. La tenda diventò sempre più grande fino a coprire l'intero giardino e lei era lì seduta nella sedia a rotelle con un giovane aviatore tedesco accovacciato ai suoi piedi. Ormai la signora Charteris non si stupiva più di niente. Le sembrava la cosa più naturale del mondo di essere seduta in giardino, viva, con un giovane nazista il quale per un non nulla avrebbe potuto ammazzarla. E non le sembrava strano neppure che il grande paracadute perdesse consistenza tutto attorno, trasformandosi in una nebbia argentea ed escludendoli da ciò che li circondava. Esistevano loro due soli, seduti vicini tra i fiori del giardino della villa. Le uniche persone al mondo. Il tedesco era un gentiluomo, parlava un ottimo inglese e dato che la signora Charteris da ragazza aveva frequentato le scuole a Heidelberg, si intesero alla perfezione. Il tedesco le disse che si era buttato perché si era verificato un guasto al motore e che sperava di non averla spaventata. «Oh no, stia tranquillo», rispose la signora. «Alla mia età non ci si spaventa. Dove era diretto quando si è buttato?» «A Birmingham?» «Ah, e che cosa andava a fare a Birmingham?» L'aviatore l'aveva risposto che andava a sganciare un paio di bombe per poi tornare a casa al galoppo. «Oh, povera me!» disse la signora Charteris. «Che giovanotto orribile! Ma non si vergogna! Perché vuole sganciare delle bombe su Birmingham? Cosa le hanno fatto di male gli abitanti della città?» Il giovane nazista le rispose che gli inglesi, essendo gelosi della Germania, avevano cominciato la guerra con l'intenzione di distruggere la patria. «Oh, stupidaggini!» aveva detto la signora Charteris. «Non sia sciocco e non ascolti tutte quelle chiacchiere sciocche che le raccontano. Perché vuole uccidere un mucchio di persone che probabilmente non hanno mai neppure visto un tedesco in vita loro?» Il ragazzo rispose che eseguiva gli ordini del Führer. «Un individuo molto sgradevole!» aveva detto la signora. «Molto, molto sgradevole. Se fosse qui, gli direi che cosa penso di lui. Adesso, se mi promette di comportarsi bene e di non farlo mai più, le permetto di... le permetto di spingermi nella sedia a rotelle e le mostrerò il giardino. Sua madre ce l'ha, il giardino? L'aiuta a annaffiarlo quando va a casa in licenza? Quanti giardinieri ha? Io ne ho uno, Pinnegar. Deve sapere che è vecchio, quasi quanto me. Ha più di 70 anni e si avvicina agli 80. Ormai non deve rivelargli che glielo ho detto. È un po' scontroso e devo star ben attenta a non ferire la sua sensibilità. È qui con me fin da quando era ragazzino, con i calzoni corti, da sempre praticamente. Non è rimasto nessun altro, neppure uno. Chissà dov'è Pinnegar. Dove siete, Pinnegar?» sister spring. So sweet my senses sing. Comrade of my wanderings, west wind. Why is your sister spring so sweet my senses sing? Comrade of my wanderings, Ed eccoci qui giunte alla fine di questa puntata e continueremo con l'audiolibro prossimamente. Vi annuncio già, ci saranno altre due puntate e poi sarà finito. Come sempre spero che vi stia piacendo, che sia una buona lettura estiva, ma dai, credo di sì, è proprio un romanzo piacevole e scorrevole anche. Che dire, ci sentiamo settimana prossima o in realtà forse quella dopo, non lo so, sono settimane un po' dubbiose sinceramente in questo agosto appunto. Comunque in ogni caso rimanete connesse ovviamente sempre su Radio Wombat anche per riascoltarvi le puntate vecchie, quindi andate per questo a spulciare il sito radiowombat.net. Io vi saluto per questa sera, vi mando un ultimo pezzo e... quindi a risentirci prossimamente un prossimo lunedì con Nervature, sempre alle 19. Ciao ciao a tutte, buona serata. Thank you.